Benvenuti a tutti gli ascoltatori e a tutte le ascoltatrici di Radio Onda Rossa. Siete sintonizzati sugli 87.9 in FM. Io sono seduta su un trespolo che speriamo che non cado. Oggi abbiamo degli ospiti speciali. Voglio salutare, prima di presentarveli, tutti coloro e tutte coloro sono in questo momento private della loro libertà personale. Potete ascoltarci anche in streaming attraverso il sito della radio, che è www.ondarossa.info. Abbiamo con noi un grande compositore di colonne sonore cinematografiche e non solo, della colonna sonora, secondo me, dell'anno, compreso del film dell'anno, il film, io oso dire, mi permetto di dire questo perché la mia opinione, che sicuramente è modesta, ma insomma è la mia opinione, è il più bel film dell'anno, una bellissima colonna sonora che ascolteremo. Il film è Non essere cattivo, parleremo anche di qualcos'altro, ad opera di Paolo Vivaldi e del suo braccio destro Alessandro Sartini. Ciao a tutti. Salve a tutti. Benvenuti. Iniziamo subito con la musica, che dite? Abbiamo ascoltato, David? E questa era After Hour, sempre della colonna sonora di Non essere cattivo. Abbiamo iniziato così, questo film uscito proprio quest'anno, l'8 settembre, la regia del amatissimo in questa radio Claudio Caligari, che noi abbiamo anche omaggiato nel giorno tristissimo della sua scomparsa. Gli attori che sono stati protagonisti di questo film, Luca Marinelli, Alessandro Borghi e molti altri, la sceneggiatura di Claudio Caligari, Francesca Serafini, Giordano Meacci. Ci tengo a citare tutti quanti perché secondo me è un film straordinario, candidato mi pare a 16 Davide Donatello, Paolo, Alessandro, sì, credo che ne abbia vinta solo una per la migliore presa diretta. E beh, insomma, io sono indignata, ma poi insomma vi dirò anche perché. Vi racconterò qualcosa di Claudio Caligari dopo, che magari condividerò anche con Paolo e Alessandro, che sicuramente hanno conosciuto durante la lavorazione del film e con il quale hanno sicuramente concordato, immagino, Paolo, le musiche. Sì, diciamo che la storia di questo film è particolare, perché io ho conosciuto Claudio proprio gli ultimi giorni della sua vita, in quanto lui ha finito le riprese, stavano montando il film, ed è grazie al montatore Mauro Bonanni che mi ha coinvolto in questa avventura. Diciamo che come si, la prassi è che spesso a volte i montatori appoggiano delle musiche di riferimento mentre c'è il montaggio del film, per poter poi avere un'idea di che tipo di musica mettere, e siccome aveva totale fiducia in Mauro Claudio, Mauro appoggiò dei brani che poi in realtà non ci sono nella colonna, ma c'era in particolare un tema col violino che gli era piaciuto molto a Claudio. Quindi quando si trattò di scegliere il musicista, ma la cosa particolare di questa storia è che tutto è avvenuto con grande fretta, perché si aveva la netta sensazione che Claudio se ne stava andando. Il tempo stava sfuggendo, sì, proprio veloce. Sì, la malattia lo stava consumando, e quindi insomma, quando c'è stato da decidere, bellissima la frase di Claudio che disse: voglio l'uomo del violino. E così è stato. E quindi insomma questo film ha avuto una storia anche di produzione abbastanza difficile, perché Valerio Mastandrea, che l'ha prodotto, ha fatto proprio una cordata tra tanti produttori, la Chimera Film, la Chimera con Paolo Tau 2, Bonni, sì. Andrea Leone, un piccolo apporto, credo, di Rai Cinema, ma insomma si è dato parecchio da fare. Ha scritto anche una bellissima lettera a Martin Scorsese, che, sì, a cui Caligari era, di cui Caligari era un grandissimo fan. No? Sì, molte, sì, molte delle citazioni nei suoi film sono proprio legate ai film di Scorsese. Io penso all'Odore della Notte, sì, insomma, in cui proprio si sente questa, questa cosa. E Valerio ha scritto una lettera commovente che io lessi a suo tempo sulla Repubblica, che potete trovare tranquillamente su internet e rileggervela. Beh, è stata una, un'opera, un'opera importante, l'ultima opera di Caligari. E le musiche la fanno da padrona, secondo me, la fanno un po' da padrona, nel senso che accompagnano senza mai essere troppo invadenti tutti gli stati d'animo, e che sono molto, molto potenti e molto profondi, dei due protagonisti che raccontano questa storia di amicizia, di difficoltà, no? Di fratellanza, di fratellanza, e di difficoltà di vivere, perché insomma, certo, quando tu vivi in un certo tipo di ambiente, non essere cattivo diventa un po' difficile. Certo. No, ma infatti ci riflettevo oggi un po' sul, su quello che purtroppo è stato, secondo me, il maltrattamento che il film ha subito ai David di Donatello, perché questo è un film che meritava sicuramente più, più sensibilità e più rispetto, perché questa è una storia, secondo me, universale, perché quello che accade a Cesare Vittorio può accadere in qualsiasi periferia del mondo, non è che devi andare a Ostia, cioè può essere Caracas, New York, Londra, Parigi, Barcellona, cioè è una storia universale che tratta di, che racconta quanto può essere forte l'amore, l'unione proprio fra due amici in, in momenti di disperazione. Quindi secondo me quello che purtroppo ci ha molto deluso è che invece il cinema italiano, così, insomma, non ha voluto premiare l'opera, i valori di questo film, che sono ben diversi da, per carità, con tutto il rispetto, dei film che sono stati premiati, per carità, massimo rispetto, però io che erano già stati premiati, diciamo, un po' dalla, dal botteghino, ecco, insomma, infatti, da tutta una serie di cose che fanno parte un po' dei quattrini di tutto quello che fa girare tutto, no? Ecco. E Caligari meritava proprio un premio, perché insomma ha fatto tre film a distanza l'uno da 15 anni dall'altro. E poi io ho letto varie cose su di lui, che magari poi dopo ne parliamo, che tu sicuramente sai e mi puoi spiegare meglio ai nostri ascoltatori. E ha fatto soli tre film che restano nell'immaginario collettivo in modo indelebile, perché infatti, Amore Tossico, L'Odore della Notte e quest'ultimo è proprio il cinema con la C maiuscola. Scusami, Paolo. No, ma infatti la cosa curiosa è che c'è, per esempio, mio figlio che ha 13 anni, i ragazzi di questa generazione, tredicenni, e anche la figlia della mia compagna, Asia, che ha scelto di, ha chiesto di vederlo, perché certo, cioè è una storia che incuriosisce, cioè, ma comunque, poi sono proprio dei ritratti di un'epoca, esatto, cioè, sono dei documenti, film, oltre che dei film. Questo film rimane, i premi passano, ecco. Sì, tra l'altro ricordo quest'estate il piccolo cinema America organizzò la proiezione a Piazza San Cosimata di Amore Tossico, e la piazza era strapiena. È stato un momento molto bello, davanti le prime file erano tutti giovanissimi, tutti, sì, c'erano tutte le generazioni al completo. Ma ascoltiamoci ancora un po' di musica e poi voglio parlare anche un po' di voi due, Va bene. Stiamo ascoltando la colonna sonora di Non essere cattivo e questo brano si chiama New Hope. Qua insieme a noi, come abbiamo detto all'inizio trasmissione, c'è l'autore della colonna sonora, che è Paolo Vivaldi, e il suo braccio destro Alessandro. Alessandro, mi racconti un po' com'è nata questa insomma rapporto di lavoro, ma anche, mi sembra, da quello che ho letto, da una cosa che tu mi hai mandato, anche un rapporto di grande stima e di amicizia. Sì, assolutamente. Ormai, perché lavorate da molto tempo, raccontami un po' com'è nata, come vi siete conosciuti. Proprio per caso, perché io mi stavo diplomando di composizione, una nostra conoscenza comune, pazzo completo, nonché ex insegnante di violino della mia fidanzata, mi ha dato il numero di telefono, mi ha detto: senti, prova a chiamarlo, so che comunque lui ha bisogno di collaboratori ogni tanto, comunque un braccio in più in questo lavoro qua non guasta mai. Chiamato e maestro, buongiorno, volevo chiedere, ma che me dai del tu? Me dai del lei? Mi fa, dammi subito del tu. Ok, benissimo. Certo. E quindi si è subito capito, ma proprio un pezzo di pane con cui lavorare. È stato subito feeling. Subito feeling. Poi all'inizio era affaticato. Che anno era? È stato faticoso. Che anno era? Il 2008. 2008. Feeling, però, appunto, devo dire, me lo sono sudato, ma insomma sono contento. Beh, ma insomma, che è vicino ai grandi maestri, la vita non è facile. È un grande maestro, lui è sempre modesto, però. Io adesso non mi sembra di annoiare, ho fatto cascare un bicchiere, per fortuna vuoto, soprattutto vuoto senza birra. E non posso citare, Paolo, tutte le colonne sonore che tu hai composto per il cinema e per la televisione, perché sono tipo, non so, tre pagine. E non so, a parte Non essere cattivo, che è la tua ultima, sì, giusto? Sì. Però magari ci possiamo chiedere proprio a lui quelle a cui è rimasto più legato, sì, quelle che ti hanno dato più soddisfazione. Beh, sicuramente i due film di Giampaolo Cugno, che sono Salvatore, questa è la vita, che ha vinto anche un Golden Globe, un bellissimo lavoro, è stato il primo film prodotto in Italia dalla Walt Disney, interamente italiano, fatto dalla Walt Disney, con Enrico Loverso, poi c'era Giannini, insomma un bel film. E lo stesso sempre di Cugno, l'altro film, che è La bella società, con un cast notevole. E poi insomma anche il film Maternity Blues è stato veramente molto molto bello, di Fabrizio Cattani. Sì. Anche quello è un film che secondo me meritava più un destino un po' più fortunato. Era un film importante, però purtroppo certo, un film durissimo, perché le madri che uccidono i figli non è un... solo che in Italia purtroppo i film drammatici hanno una vita molto molto difficile. Infatti Caligari insegna che anche i compositori di colonne sonore in Italia hanno una vita difficile, nel senso che qua in questa radio oggi ci sei tu. Se tu fossi in una radio probabilmente francese, avresti già vinto un Oscar. Ecco, no, io credo che sia questo. Cioè, io credo che l'Italia purtroppo sia un paese ancora, a dispetto degli altri paesi europei, in un certo senso medievale nei suoi, nella sua visione, assolutamente. Nella sua visione della cultura, nel senso che per loro, per l'establishment, perché poi alla fine, dai, sti premi sono establishment, fa piacere vincerli, eccetera, ma insomma poi alla fine si premia chi fa botteghino, chi fa arrivare quattrini, chi fa muovere il mercato, non c'è dubbio, eccetera. Quindi è establishment, e Caligari non è mai stato questo. No, volevo aggiungere una cosa. Il problema è che le colonne, tu dicevi, è difficile, no, fare il compositore di colonne sonore, ma è chiaramente perché mentre negli anni 60, negli anni 50, nei 70, 80, già 80, insomma, no, arriviamo a metà degli anni 80, non c'erano alternative, adesso diciamo le colonne sonore le fanno un po' tutti, purtroppo, lo devo dire, non vuole essere uno snobismo da parte mia, ma diciamo che le persone che decidono di scrivere per la musica per il cinema e prima di fare questo decidono di passare 10 anni dentro un conservatorio via dei Greci a massacrarsi, perché il diploma di composizione è una cosa devastante, che quando l'abbiamo fatto noi veramente roba da sudori freddi. Sono 10 anni di torture vere per poter arrivare poi a una cosa che in realtà non serve quasi a nulla nell'ambito professionale, ma che in verità invece ti dà una preparazione, perché io penso che un compositore di colonne sonore deve conoscere da Stravinsky a non lo so, i Daft Punk, ecco. Quindi siccome molti non sono preparati su questo argomento, soprattutto trovare dei compositori che suonano e dirigono quello che fanno è un caso rarissimo. Io penso che saremo 4-5. Infatti la cosa che diceva Piovani l'altra sera ai Davide era fondamentale, cioè date ai giovani compositori un'orchestra, è vero, però bisogna vedere quanti la sanno usare. No, devi scrivere. Bisogna scrivere, non c'è il computer che ti dà una mano a scrivere un'orchestra, non c'è il loop, non c'è la facilitazione. Qui o scrivi o scrivi, e soprattutto se scrivi devi anche riuscire a comunicare qualche cosa. No, ma il problema è questo, dunque c'è stato veramente un grosso buco ormai nella discografia, no? Perché i dischi non vendono più, perché ormai si scarica tutto da internet, cosa compri? No. Quindi gli stessi artisti pop si sono buttati sulle colonne sonore, perché la colonna sonora è una cosa che comunque poi ha un rientro di SIAE, no? O sul concerto. O sui concerti. Però molti, noi ne abbiamo trovati anche in colonne sonore, dove io adesso per una questione di correttezza non cito, ma sono stato chiamato con la valigetta a rimettere a posto delle cose, perché erano stati chiamati degli artisti pop che di fronte non sapevano dove mettere le mani. Ma certo, perché è un lavoro specifico, non è semplice scrivere su una scena, fare un sync, fare partire la musica da un punto, poi sviluppare il tema, asciugare sotto dialogo, cioè è un lavoro come l'artigiano, come il fabbro lavora al ferro, che io non lo so fare. Però siccome in Italia tutti fanno tutto, tutti si improvvisano, il mercato si è inflazionato. Ma guarda, lo stesso discorso vale per i montatori, perché una volta io ho cominciato con i film che si montava in moviola, con la moviola con la pressa, la Catozzi, cioè a mano. Adesso basta un Avid, è una cosa, cioè, che può prendere in mano chiunque, però poi la differenza si vede. Si vede. Il montatore di questo film di Caligari, Mauro Bonanni, è un esempio. È bravissimo. Bravissimo. E comunque, per concludere, il mio concetto è che si premiano quelli che insomma sono già stati premiati dai quattrini, mentre invece dovrebbero essere premiati quelli che invece hanno una qualità rispetto a il quattrino che si guadagnano i produttori, gli esercenti, eccetera eccetera eccetera. Ecco, quel cinema di qualità non viene quasi mai premiato, a dispetto di un cinema che viene già premiato dai soldi, e questo è un gran peccato, secondo me. Comunque ci sentiamo ancora un po' di musica, perché la musica di Paolo con l'appoggio di Alessandro, e l'amore importante che ci ha messo Alessandro in tutto questo periodo di insomma di ma scambio. Alessandro firma dei brani, non è solo un cioè non è che è un ghostwriter come molti miei colleghi che hanno i ghost che li tengono chiusi in uno sgabuzzino e gli danno un pezzo di pane. Non appaiono mai in nessun tipo. Io sono ben felice che lui sia comparso e abbia avuto la nomination insieme a me. Tu, Paolo, sei una persona speciale, anche Alessandro, come tutti i compositori che abbiamo avuto qua, Enrico Melozzi, Valerio Vigliar, giusto? Come no, Vigliar, Valerio, lo conosco bene. Tutti i compositori che sono venuti qua, bravissimo, tutti i compositori che ci hanno onorato della loro presenza Giuliano Taviani, certo, negli studi di Onda Rossa, sono proprio fatto respirare un'aria che purtroppo in questa Roma inquinata si respira difficilmente. Quindi grazie a te, a Alessandro e a tutti i compositori che sono arrivati, speriamo che ne arrivino ancora tantissimi. Sentiamoci un altro po' di musica, dai. Thinking About Deborah, un brano della colonna sonora di Non Essere Cattivo di Paolo Vivaldi. E volevo aggiungere un'informazione, che il primo brano che abbiamo ascoltato era composto da, Alessandro Sartini. E stavamo dicendo, adesso fuori onda, si dice fuori onda, Fede, in radio? Che questo tema ha una storia? Parlavamo di un'altra cosa? Il tema di Cesare Vittorio, sì. Che ancora non abbiamo sentito, che poi quindi è il prossimo. Arriveremo. Allora sentiamoselo e poi ci racconti? No, che dite? Ve lo racconto prima? No? Dai, sì, sì, dai, sì, sì, sì, da paura, sì. Beh, è una storia molto, cioè l'incontro con Claudio è stato breve ma intenso, proprio impressionante, per quanto, cioè, era un uomo magnetico, cioè aveva una personalità mista di una persona che, diciamo, in punto di morte ti dà una stretta di mano di quel livello e ti accoglie con un sorriso, e in quella maniera veramente, cioè, io sono uscito da quell'appartamento di via Prenestina, dove, perché lui gli ultimi giorni li ha passati con la madre Adelina, che saluto, che è una persona meravigliosa, che ha 96 anni, una donna eccezionale. Allora parlammo appunto di questo tema. Io gli dissi che mi sarebbe piaciuto scriverlo per sax, perché il sax soprano, in particolare il soprano della famiglia dei sax, è uno strumento particolare, perché non è un incrocio tra un sax e un clarinetto, se vogliamo, quindi c'ha quel suono che sta a metà tra il sax, il contralto, il tenore, quindi non è ricurvo ma è quello strumento dritto come se fosse un clarinetto. Quindi quando lui, gli si illuminarono gli occhi e disse questa cosa molto bella, che mi disse sì, con un filo di voce, il sax mi ricorda tanto Ultimo Tango a Parigi. Quindi diciamo che, ma a tempo, penso il giorno stesso, sono tornato a casa, ho aperto il pianoforte, ho scritto sto pezzo, perché io lavoro così, non è che ci penso tanto, vado distinto. Beh, mi emozioni quando mi racconti di Claudio e quando parli di come componi. Per me è come una cosa, cioè una cosa magica, questa cosa della composizione della musica, e come, non so, qualcosa di come la fotografia, no? Che ha qualcosa di magico, immagino, no? quando con l'ingranditore fissi l'immagine sulla carta, no? E poi appare con quei liquidi, è qualcosa di straordinario, che non al quale non riesco a trovare delle spiegazioni. Però io sono contenta certe volte di rimanere così nel non sapere. Ma mi non piace, ma la musica non si spiega, mi piace non trovare delle spiegazioni, mi stufo poi quando si trovano delle spiegazioni. La mia insegnante di composizione, Teresa Procaccini, una donna strepitosa che ancora scrive, che mi ha insegnato a vivere, non solo a scrivere, che mi prese che avevo 15 anni, ma la musica viene proprio così. Ci siamo lasciati, cioè, a 25, diceva, la musica non si parla, si suona. È una vibrazione che senti dentro e che neanche tu spesso ti sai spiegare da che cosa, da quale pulsione viene, no? No, penso sia una forma di comunicazione. Io sono stato fortunato avere questo dono. È proprio un dono, sì. Senti, invece io volevo ricordare, adesso voglio togliere un pochino di spazio a Alessandro e a Paolo, perché io sono molto legata a Caligari, che per varie ragioni che non vi sto a dire. Però voglio parlare di alcune cose di Caligari che forse gli ascoltatori, i più giovani probabilmente, non sanno. Ha una biografia molto bella, è stato un uomo molto mite, molto discreto, che è molto appassionato a tutti i temi sociali e politici della vita che ha vissuto. E oltre ai tre film che tutti noi conosciamo, Caligari è nato come documentarista. Sì. Voglio raccontarvi alcune delle opere che ha girato nella sua vita. È stato un intellettuale molto impegnato politicamente nella storia politica della sua giovinezza e anche della sua maturità. E sono bellissime alcune citazioni che ho letto e che definiscono anche in modo marginale questo regista, che ha iniziato proprio la carriera nel mondo del cinema come documentarista, come vi dicevo, e pensate che una delle prime cose che ha fatto è stato girare un documentario durante la manifestazione nella quale Giorgiana Masi nel 1977 è stata uccisa. E in una bellissima intervista, di cui poi vi racconterò, vi dirò la fonte perché vi consiglio di andare a leggere, è una delle poche interviste che si trovano di Claudio Caligari, che sono proprio pazzesche, nel senso che era un uomo che non finiva tanto sui giornali, che era anche, secondo me, anche una persona molto discreta, discreto, proprio di suo, molto discreto. E quindi insomma gli dava fastidio parlare molto di sé, celebrarsi, molto, eccetera, molto. Quindi insomma c'è pochissimo di lui in giro. Io ho fatto molta fatica a trovare delle cose, però avevo questo articolo a casa, l'avevo tenuto da parte, essendo io una sua grande ammiratrice. Nel maggio del 1977 ero a girare la manifestazione in cui ammazzarono Giorgiana Masi qui a Roma. Era già un disastro, c'erano gruppi di poliziotti infiltrati tra i manifestanti, c'era Autonomia che voleva controllare il materiale girato, quello che aveva girato l'attacco all'AMA all'università lo massacrarono. Prima avevo fatto anche un film sulla psicanalisi, La follia della rivoluzione, parlato in diverse lingue e passato all'epoca in una sezione marginale del Festival di Berlino, ma avevo capito che era finito il tempo del cinema militante, ci sarebbe stato solo il cinema industriale. Da quel giorno, Giorgiana Masi ad Amore Tossico, passano quasi 5 anni di tentativi. E poi fa altre cose, di lavori di documentario. Fa un primo documentario nel 1976 che si chiama Perché droga, Alice e gli altri nel 1976, sempre Lotte nel bel, La macchina da presa senza uomo, La follia della rivoluzione, La parte bassa, e poi le sue 3 opere del cinema. Ecco, Claudio Caligari in tutti questi anni che sono passati tra un suo lavoro e l'altro non è stato con le mani in mano, ha scritto tanto, ha lavorato, perché questo era il suo mestiere, era fare cinema, era scrivere film, e di questo probabilmente non ne poteva fare a meno, anche se ha trovato praticamente sempre delle porte chiuse. E in questo ho letto sempre in giro, mentre mi documentavo per la trasmissione di oggi, che Valerio Mastandrea, che insomma è stato molto legato a Caligari, non solo perché è stato scelto per L'odore della notte, ma poi perché anche ha prodotto questo film, l'ha voluto fortemente, insomma c'era un rapporto di grande amicizia tra i due, che adesso non so, magari un giorno che verrà in radio, lui è un amico della radio e magari se lo racconterà di persona, però ha detto che probabilmente lui lavorerà, perché adesso si sta dedicando un po' alla produzione, ma Mastandrea lavorerà a questi progetti, e io ve li voglio citare perché non sto citando niente di segreto, visto che sono usciti sui giornali. Ecco, allora, per dirvi Caligari che intuizioni aveva prima di tutti gli altri. Aveva scritto 4-5 sceneggiature che trattano epoche storiche di cui tutti quanti sono abituati a trattare in modo, cioè, e Caligari è questo, no? Cioè lui trattava delle cose che fanno parte del nostro immaginario comune e che dei registi normalmente raccontano con un punto di vista. Ecco, lui riusciva a raccontare quella cosa attraverso un punto di vista che nessuno aveva, quindi la raccontava in un modo assolutamente originale, senza nessuna banalità, senza nessuna retorica. Parliamo degli anni 70, no? Anni rapaci, raccontava come si trasformava la criminalità che da un rapimento, da una revolverata, passava a vincere le gare d'appalto. Ecco, sto parlando con le parole di Valerio Mastandrea, non sono parole mie. E Caligari dice sempre: Mastandrea ha avuto sempre questa peculiarità, usare il cinema dove si pensava che il cinema non potesse arrivare. E così altre cose. Non riesce a realizzare La ballata degli angeli assassini, Dio non c'è alla sanità, La storia di un prete anticamorra, Suicide Special, una storia di scontro tra bande criminali in una Roma notturna popolata da balordi, prostitute e travestiti. Beh, insomma, stiamo parlando già di Suburra, insomma, stiamo parlando di cose che lui aveva già pensato 20 anni fa. E quindi, insomma, che cosa vi devo dire, se non essere polemica di fronte a questo cinema che ci racconta banalità che potevano essere raccontate da un grande regista con un punto di vista che purtroppo nessuno oggi ha. Ecco, basta, sentiamo un po' di musica, mi sono abbastanza espressa sulla mia visione del cinema contemporaneo di oggi. Probabilmente non farò mai la regista, non lavorerò mai nel cinema, ma chi se ne frega. E questo è il tema principale di Non essere cattivo, giusto? Sì, Cesare Vittorio, suonato da quel fenomeno che è Marco Guidolotti, che è veramente un sassofonista. Ecco Paolo, a questo proposito volevo chiederti del tuo rapporto con i musicisti e con le orchestre più in generale. Beh, allora, i musicisti presi singolarmente sono una cosa, quando, quando aumentano di numero cominciano i problemi, come in tutte le cose della vita. No, vabbè, i musicisti, io ho avuto la fortuna di lavorare con gente di talento sproporzionato, cioè considerate che io feci un film del quale purtroppo non c'ho più la colonna sonora, non si sa dov'è, che si intitolava Banditi con Ben Gazzarra di Stefano Mignucci, colonna sonora fatta da Aires Tango e Antonello Salis, non so se conoscete diciamo il livello di follia di questa situazione, e, però parliamo di, insomma, di gente di altissimo livello, no? Quindi Michele Rabbia alle percussioni, tutta gente che poi dopo pensa quello, loro con i soldi che guadagnarono di quella colonna sonora fecero il primo disco della loro carriera, gli Aires Tango, che adesso è diventato un gruppo notevole. Ho avuto la fortuna di lavorare con grandissimi interpreti, anche Rodolfo Gianmarco, il sassofonista, o Stefano Di Battista, poi adesso ultimamente mi sono legato a questi archi dell'Accademia di Santa Cecilia, in particolar modo Alberto Mina, che è la spalla dei secondi, Carlo Nori, Anita Mazzantini, Mia Shiozaki e Antonio Bossone alla viola. Questo è il mio quintetto col quale faccio un concerto che si intitola Il suono dell'immagine, cioè suoniamo i miei temi partendo da Rino Gaetano, altro film veramente al quale sono molto legato, con quel pazzo di Claudio Santamaria, e arriviamo a Non essere cattivo, però suoniamo con le immagini dietro, pianoforte e quintetto d'archi. Alessandro si occupa sia della parte tecnica e suona anche lui delle cose al pianoforte, e soprattutto suona la macchina da scrivere alla fine, perché chiudiamo, diciamo, con il tema della macchina da scrivere di Olivetti, che adesso magari ci andiamo a sentire. Partiamo, passiamo, lasciamo Non essere cattivo, perché e ci dedichiamo un po' a Olivetti e agli altri lavori. Se ce l'abbiamo, di Paolo abbiamo ancora un po' di tempo. Sì, ce l'abbiamo, ce l'abbiamo. Adriano's Ideas, ed è un brano tratto dalla colonna sonora della serie Olivetti. È una serie, no? Sì, due puntate. E volevo chiedervi, ma che tipo di macchina da scrivere avete usato? Allora, per dal vivo utilizziamo proprio una lettera 22 originale che è identica a quella che Adriano Olivetti mostrava nel film. Se no, appunto, durante le registrazioni abbiamo utilizzato una macchina che Paolo aveva ritrovato in cantina, enorme ma agilissima. Infatti questi movimenti qua così rapidi si possono ottenere solo con una cosa estremamente ben funzionante. Sento bene, avesse comunque penso 80 anni quella macchina. Era una macchina da scrivere in ghisa. E il tema è nato perché ho ritrovato la macchina. Perché ho trovato la macchina. Perché se non sapevo che cazzo scrive. Cioè, ho trovato sta macchina. Potevi chiedere a me. Avresti potuto chiedere a me, perché io ho iniziato a scrivere per i giornali con una macchina da scrivere, perché ai tempi ero molto giovane, con computer. Esattamente, che mi regalò mio zio Mino. E ai tempi non c'erano ancora i computer, e io scrivevo per vari giornali, sempre di cinema, e non avevo un computer, non esistevano le stampanti. Avevo 17 anni quando ho iniziato a scrivere i miei primi articoli, e che poi ho smesso perché insomma ho lasciato spazio a chi era molto più capace di me. Avevo un Olivetti. Pensa, invece, quando i critici erano ai festival, dettavano gli articoli al telefono, alla redazione. Avevo un Olivetti, e mi ricordo che portavo in redazione questi fogli scritti a macchina, che ho ancora qualcosa, e avevano un fascino, perché poi scrivere a macchina ha un e la tengo ancora da parte, eh? Quindi se vi riserve, se fate una seconda altre puntate di Olivetti, ve la presto. Un rewind. Parliamo del 2013, Paolo, eh? Adriano, sì. Olivetti, La forza di un sogno, sì. Una miniserie televisiva in due puntate ispirata proprio alla vita di Adriano Olivetti, diretta dal nipote di Olivetti, perché Michele Soavi è il nipote diretto di Olivetti. Altro regista che amo moltissimo, forse l'unico regista della televisione che io stimo profondamente, perché secondo me è un grande Michele Soavi, è un grande di una sensibilità incredibile, non solo dal punto di vista proprio di insomma del lavoro di regia, poi un gusto, delle inquadrature meravigliose. Esatto. Ma lui viene dall'horror, eh? sì certo, lo so bene. E poi anche una grande passione per la musica, sì ma pure troppo. Ci fa passare bene di inferno. sì, è una persona molto attenta. Voglio ricordare soltanto i personaggi, gli interpreti: Luca Zingaretti, Stefania Rocca, Radonic, moltissimi altri, Francesco Pannofino, tantissimi altri. La storia di Olivetti la conosciamo, non credo che ci sia bisogno che venga citata. Sì. Stavo dicendo prima, tra le cose che abbiamo ascoltato, che ci hai fatto ascoltare quando ci hai mandato tutto il materiale, Olivetti e anche Mennea sono quelle che ho amato profondamente. Cosa vogliamo ascoltare? Mennea, sì, io ascolterei proprio il tema La freccia del sud. Come abbiamo detto prima, questo è un brano dalla colonna sonora della serie Mennea, La freccia del sud. Anche questo lavoro fatto insieme tra te e con l'apporto di Alessandro. Sì, un bel lavoro con Ricky Tognazzi, un regista col quale mi trovo benissimo, persona splendida, veramente bravissimo secondo me. Adesso il 23 maggio su Rai 1 va in onda Boris Giuliano, la storia del poliziotto della squadra mobile ucciso dalla mafia a Palermo, in due puntate con Adriano Giannini. La colonna abbiamo fatta quanto noi. Mi piace Adriano Giannini. Bravissimo, me lo devi presentare, lo dico sì. A tutti quelli che vengono qua in trasmissione mi parlano di Adriano Giannini. Ma piace solo a te, piace a tante donne, lo so, non ti preoccupare. Beh, molto molto bella il film, se avete occasione vedetevelo, anche se insomma potrebbe sembrare fiction Rai 1, ma Ricky è una persona che ha molto molto gusto. È bravo, sì, è un bravo regista. Scritto con Simona Izzo, devo abbiamo dire. Poco tempo, sono le 15:56, ma la musica di Paolo è talmente bella. Rino Gaetano avevamo sentiamoci scelto. Qualcos'altro, poi diamo i saluti. Aspetta, l'ultima cosa, questo tema di Rino Gaetano nasce da un'audiocassetta che mi è stata consegnata dalla sorella di Rino Gaetano, dove c'era un inedito in cui Rino suonava il pianoforte a casa, registrato col microfono, e faceva questa canzone che faceva la la la la senza parole, una canzone che non è mai stata scritta, che è rimasto un appunto. Quindi io su questo appunto ho ripreso le prime quattro note e ci ho scritto il tema della colonna della serie televisiva. questo era un brano omonimo della serie, quindi Rino Gaetano, composto da Paolo e da anche da solo il Paolo questa volta. Non esistevo. Sarà salvato. Che anno era? Sai che non me lo ricordo. Te lo dico io. Era il 2007? 2007. Sì. E anche questa. Però l'avevo vista. Questa serie era per la regia di Marco Turco. Sì, con Claudio Santamaria, Katia Smodiac e l'altra che poi ha avuto grande successo. Adesso mi sfugge anche a me. Non te lo dico, se me lo so scritto. Non era la Laura Chiatti. Laura Chiatti. Devo dire che li ha lanciati a tutti e tre. Sì, sì. Bene, e non so se riusciamo a sentirci anche qualcos'altro. Sì. Ci piaceva l'idea di Mennea. Flying Kite, no? Flying Kite, forse ci chiudiamo proprio perché David ci tiene particolarmente. Sì, allora chiudiamo con Flying Kite, sì. Okay, che allora dite? Sentiamoci un altro pezzo, poi questo, ci saluti, le coordinate per sostenere la radio. L'unica cosa doverosa che devo dire, Flying Kite è un brano che nasce dalla colonna sonora di Olivetti, che è diventata la sigla della mostra del cinema di Venezia, e adesso è sigla di un programma televisivo, Orizzonti, che va tutte le mattine su Rai 1 alle 10. Però devo condividere questo brano con la bravura straordinaria e una fase improvvisativa di Marcello Sirignano, che è il violinista che lo suona, che è un fenomeno incredibile. Sì. Che vola come, sì. Esattamente, perché questo è il tema dell'Aquilone, quando Olivetti era bambino. Flying Kite. Bene, siamo in chiusura. Attica Blues sta arrivando a seguire La Schiena del Soul. E qua con noi oggi, grande onore è stato avere qua in questi studi di Radio Onda Rossa Paolo Vivaldi e Alessandro Sartini. Grazie mille, vi do le coordinate per sostenere questa radio che, come sapete, non vive di aria ma vive delle sottoscrizioni, degli aiuti che gli ascoltatori che la amano e che l'ascoltano possono, ci fa piacere ricevere. Potete dare una sottoscrizione attraverso il conto corrente postale 61804001, intestato a Cooperativa Culturale Laboratorio 2001, via De Volci 56001 85, Roma. Ma potete più facilmente sostenere la radio se non avete voglia di andare alla posta, di compilare il bollettino postale, attraverso il sito della radio www.ondarossa.info, cliccare sul pulsante sostieni, è molto facile, basta avere una carta di credito, un bancomat e si può fare una sottoscrizione a questa radio, che è una radio autogestita e che vive perché viene gestita e sostenuta dagli ascoltatori, visto che non ha pubblicità, non ha partiti politici che la sostengono, è libera dal 1977. Io in chiusura volevo ricordare una cosa che ho dimenticato, perché sabato 23 il centro sociale Ricomincio dal Faro festeggia l'occupazione dal 1987, e allora festeggiano con il cinema, e ci sarà la proiezione di Alaska con Claudio Cupellini il regista, Elio Germano il protagonista. Bel film. L'appuntamento è alle 20, il film è per le 21:30, insomma. Non mancate quindi sabato, ma ricordatevi anche che c'è un'iniziativa a sostegno della radio del collettivo Terra Madre dei compagni di Montelanico in provincia di Roma. Domenica 24 aprile alle 10:30 ci sarà un pranzo e tanta musica, e se pioverà non vi preoccupate perché c'è un capannone, quindi saremo tutti coperti, potremo ballare, mangiare, se mangia benissimo. Montelanico è da paura, venite, sostenete la radio, venite a sentire la musica, divertitevi e state con noi. Un saluto ai nostri ospiti. Grazie, un saluto a voi, siamo stati benissimo. Complimenti. Molto bene, grazie. E ci sentiamo giovedì prossimo dalle 15 alle 16. Indirizzo di posta elettronica tracce di cinema @ondarossa.info. A giovedì prossimo. Chiudiamo con David. Un brano da Mennea, Mennea e Borzov.